Mi buon pomeriggio a tutti, siete in contatto con il soundcheck di Radio 24, buon pomeriggio da Gigi Telesforo, sentite gli applausi che arrivano direttamente per voi dall'aula magna della Casa dello Spettacolo qui a Roma. Una casa dello spettacolo che serve a formare le professioni che riguardano poi l'intrattenimento del nostro paese. Metti in scena il tuo futuro, questo è lo slogan che è riportato qui sulla brochure, corsi gratuiti per il teatro. Per parlarvi della Casa dello Spettacolo, delle lezioni che vengono svolte e trattate per tutti i ragazzi che poi si iscrivono in questa bellissima struttura, abbiamo coinvolto uno dei docenti che mi sa che è poi anche uno degli artefici di questo progetto. Vado a introdurvi il maestro Claudio Rizzo. Buon pomeriggio, Claudio. Ciao Gigi, grazie di essere qui. Allora, vuoi che ti parli di questa? Sì, facciamolo subito. Parlami subito del progetto Casa dello Spettacolo. Che cos'è, com'è e perché? Allora, la Casa dello Spettacolo nasce 2 anni fa come progetto, è un bando della Regione Lazio, più precisamente dell'assessorato alla formazione, che appunto pubblicò 2 anni fa questo bando e fu abbastanza innovativo, perché è il primo, bisogna dire assolutamente, il primo bando che riguarda la formazione nel mondo, nel campo dello spettacolo, che la Regione abbia mai fatto. Fortunatamente, con una cordata di associazioni culturali e società esperte del settore, abbiamo partecipato, la nostra capofila è la Engim San Paolo, dove ci troviamo in questo momento, e fortunatamente abbiamo vinto questo bando. I fondi sono della Comunità Europea, va detto, ed è previsto su 2 anni, è sviluppato su 2 anni, e abbiamo quasi 20 azioni, loro le chiamano azioni, noi le possiamo chiamare materie. Allora, dicevi che è sostenuto economicamente, quindi i ragazzi che si iscrivono non devono pagare un'iscrizione? Non pagano, abbiamo fatto delle selezioni molto accurate in cui abbiamo esaminato i profili psicologici, attitudinali dei ragazzi, e sono stati scelti 18 ragazzi come tetto massimo per ogni materia. Ecco, quindi i ragazzi non pagano, assolutamente gratuito, però è stata fatta una selezione. Ecco, la selezione come funziona? Come è avvenuta la selezione di questi ragazzi? Dunque, la selezione è avvenuta ovviamente con la partecipazione di uno psicologo, dei docenti, eccetera, eccetera, che hanno cercato di capire il livello di follia di questi ragazzi che da grandi vogliono lavorare nel mondo dello spettacolo, una vera e propria follia. Esatto, la follia è una parte determinante di chi vuole fare spettacolo, noi lo sappiamo bene, per cui abbiamo cercato di esaminare anche questo. Però la fortuna, anche la determinazione, quello abbiamo esaminato molto. Siete in contatto con la Casa dello Spettacolo, questo però è il soundcheck, e il soundcheck si nutre di musica, grande musica, quella che ci riporta Gregory Porter, cantante americano che va per la maggiore fra i primi posti, questa nuova produzione intitolata Liquid Spirit nella classifica iTunes americana, ma anche qui in Italia va molto bene. Il brano è The In Crowd, vecchio successo di Bill Page, per Gregory Porter al soundcheck di Radio 24. Sì, è il soundcheck, era Gregory Porter con The In Crowd dall'album nuovissimo Liquid Spirit, qui in diretta per voi dalla Casa dello Spettacolo di Roma. Metti in scena il tuo futuro, questo è lo slogan della Casa dello Spettacolo, che è aperta a tutti coloro che amano il teatro, il musical e lo spettacolo dal vivo e vogliono mettere a frutto il loro talento. Avete talento, ragazzacci? E da vendere soprattutto un entusiasmo. Restate qui in contatto con Radio 24 per il soundcheck. Soundcheck. Check, il suono della musica. Soundcheck. il suono della musica. Sempre il soundcheck di Radio 24, il sound inconfondibile di D'Angelo con Chicken Grease. Questo signore chiamato D'Angelo, che non è parente a Nino D'Angelo, è una star dell'R&B contemporaneo. La sua musica viene dall'ascolto forzato di James Brown, Sly and the Family Stone, di Prince, e oggi è una stella di prima grandezza. Io ho avuto il piacere e l'onore di vederlo dal vivo al Gibson Theater a Los Angeles un anno fa con un'altra star del contemporary R&B che è Mary J. Blige. Mi sono emozionato, e la cosa molto buffa che ero con altri due amici bianchi, perché nella platea del Gibson Theater 4.000 posti a sedere erano tutti neri, eravamo noi tre a cantare tutte le canzoni di D'Angelo. Al contrario, gli altri ci guardavano un po' stupiti di come dei bianchi come noi potessero conoscere il repertorio di D'Angelo, ma ce l'abbiamo fatta. Questo è il soundcheck di Radio 24, sempre per voi dalla Casa dello Spettacolo di Roma, dove vengono formate le nuove professioni dell'intrattenimento. E ho avanti a me una bella ragazza, proprio per parlare di X Factor e di Sostiene Bollani, che si chiama? Irene. Irene, tu che cosa studi alla Casa dello Spettacolo? Ufficio stampa e promozione dello spettacolo. Oh, allora, vediamo un po', tirami giù due bei comunicati stampa per promuovere Sostiene Bollani e X Factor. Cosa ti piace e cosa non ti piace dei due programmi? Beh, diciamo che Sostiene Bollani è... fa riscoprire la musica anche alle persone che di musica ne sentono gran poca, e in più aggiunge quel tocco in più di simpatia che rende il programma più particolare e diciamo anche più appetibile per il pubblico. Quindi non è solo per un pubblico colto, è un po' per un pubblico che è curioso di avere qualcosa di nuovo fra le mani. Io credo che questo sia uno dei punti di forza di Stefano Bollani, che è un mio amico, un musicista meraviglioso, il fatto di trattare argomenti alti con la leggerezza dei grandissimi artisti. Esattamente, è proprio questa la differenza secondo me con X Factor, che invece può diventare anche un po' uno zoo antropologico, quindi tutti si sentono di poter essere qualcuno per quei famosi 15 minuti di gloria che diventano pochi minuti, e invece poi in realtà si scontrano con un mondo forse troppo crudele, nel senso che quei 2 minuti di gloria li fanno diventare dei buffoni di corte per tutto il resto del paese, con YouTube incluso. Quanto è importante per il programma televisivo il ruolo dei giudici di X Factor? Beh, fondamentale, loro sono il grosso del programma, diciamo. Cioè, le loro critiche sono quelle che il pubblico a casa ascolta più volentieri. Cioè, io non credo sia la ricerca del talento, quello è un secondo piano. Secondo me, anche i dati lo dimostrano, le selezioni di X Factor fanno molta più audience quasi del programma di per sé. Quindi è fondamentale il ruolo e la crudeltà e l'arroganza, ma anche la simpatia e la voglia di intrattenere che hanno questi giudici. Allora, ti intrattengo io invece con il sound di Robert Glasper. Hai mai sentito parlare di questo pianista? No, sono proprio lì. Te lo presento volentieri. Il brano è un classico del jazz latino, si intitola Afro Blue, sound e composizione scritta da Mongo Santamaria, maestro conghero, tanti anni fa. Qui nella versione contemporanea di Robert Glasper, dall'album Black Radio, la voce è quella di Erika Badu al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. S- Sì, qui dalla Casa dello Spettacolo, sempre Gege Telesforo per il nostro soundcheck. Stiamo trattando come argomento la musica in televisione, analizzando, sostiene Bollani, bellissima produzione che essenzialmente parla di musica e di jazz con protagonisti tanti musicisti strepitosi su Rai 3, e X Factor, che è un successo televisivo ormai da qualche anno, con protagonisti quelli che forse diventeranno le nuove pop star, ma soprattutto, dicevamo con una tua collega, un'altra studentessa, i quattro giudici. Tu come ti chiami? Giada. Allora, Giada, tu anche tu studi per diventare un giorno? Un ufficio stampa, preferibilmente promotrice o promoter della musica e dei nuovi talenti. Qual è il tuo artista preferito, l'artista per il quale tu vorresti fare l'ufficio stampa? Allora, il mio artista preferito in assoluto è Freddie Mercury, però per l'Italia Marco Mengoni. Perfetto, Marco Mengoni, capita proprio a fagiolo, perché Marco Mengoni è stato scoperto e lanciato proprio da questa trasmissione televisiva. Cosa ne pensi di X Factor e cosa ne pensi di Marco Mengoni che ha raggiunto il successo passando da questa produzione? Allora, non vorrei sembrare di parte, perciò cercherò di sembrare imparziale, però almeno nei primi tempi per me X Factor era un mezzo per poter aiutare chi magari si ritrova alle porte delle case discografiche barrate, quindi prova magari un'altra via, perché non è detto che a X Factor vadano solo buffoni di corte, come la mia collega precedentemente ha affermato. Cosa che non avviene comunque da Bollani, perché comunque lì si parla e si fa musica, mentre X Factor si cerca di fare musica, ma si cerca soprattutto di promuoverla. Infatti io la vedo un po' un'officina nella quale poi le case discografiche vadano a pescare il prodotto già fatto e confezionato. Nel caso di Mengoni però, qui un po' lui all'inizio ok ha vinto X Factor, però io personalmente credo che si sia un po' tolta l'etichetta del talent. Guarda, tu devi fare l'ufficio stampa assolutamente, perché ha una parlantina strepitosa questa ragazza. La cosa sulla quale ti vorrei far riflettere è che vengono fuori dei talenti, però quanti talenti puri e buoni restano a casa? Sì, anche perché poi lì bisogna vedere il meccanismo di selezione che adotta X Factor, o comunque talent che da quando è iniziato questo programma poi hanno copiato, come ad esempio altri talent show che fanno anche su altre reti come Amici o cose simili. I talenti che rimangono a casa sono quelli che purtroppo per me non hanno il coraggio nemmeno di esporsi a critiche di giudici o simili comunque. Quindi non solo non hanno il talento, ma non hanno neanche quell'energia e quell'entusiasmo tale da poter coinvolgere, oppure hanno il talento ma non l'energia che poi riesce a... Non fanno lo show, avere il senso dello show. Ne abbiamo parlato ieri qui nell'aula magna della Casa dello Spettacolo di Roma, dove siamo ospiti. Avrete notato che protagonista di questa edizione di X Factor senz'altro c'è la musica rapper italiani. Io qui invece vi voglio far ascoltare il mio rapper preferito in questo momento negli Stati Uniti, che è un signore nero piccolino che si chiama Q-Tip, un ragazzo con una velocità di pensiero e un'intelligenza strepitosa, bravissimo autore di testi, ma anche con un gusto musicale molto particolare e fine. Q-Tip in Getting Up al soundcheck di Radio 24. And we could be like girls exposed to history, like staying with each other with truth and chivalry. The things we go through, they shape identity. Yes, pretty, let's do this all night. Consummate this thing and make it all right. And when we cuddle up, I promise that I might. We need to get up, come on, we're getting up. Today is nice, come on, are you ready? Siamo più o meno ai saluti dopo Q-Tip con Getting Up qui al soundcheck di Radio 24 dalla Casa dello Spettacolo. Allora, una battuta: ti piace Sostiene Bollani o X Factor? Sostiene Bollani. Come ti chiami? Marta. Marta, perché ti piace Sostiene Bollani? Perché viene considerato un programma di nicchia, ma in realtà non lo è, secondo me, nel senso che ci sono molti elementi ed è variegato. mentre X Factor è proprio un programma che si mantiene su una sola linea, che è una linea prettamente commerciale, secondo me. Ragazzi, io vi ringrazio, sono stato benissimo in vostra compagnia, spero di tornare prestissimo alla Casa dello Spettacolo, augurandomi di trovarvi in giro sul palcoscenici magari di X Factor o di Sostiene Bollani o in giro per il mondo a fare quello che vi piace, con passione e entusiasmo, perché lavorare nell'intrattenimento, nella musica e nello spettacolo è una gran bella cosa, se ci riuscirete. Grazie a tutti. C'è la campanella, è finita l'ora anche per noi. Qui si chiude il soundcheck con Jill Scott e Rolling Hills. Ci sentiamo presto, buon pomeriggio da Gege Telesforo. Grazie ragazzi. I wanna see you grow. Soundcheck. Il suono della musica.